Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, la trasmissione che quotidianamente vi accompagna nei vostri percorsi mattutini a quest'ora e in replica alle 20.45. Di cosa parleremo oggi? Ma forse della più grande passione degli italiani, il calcio. Eh sì, perché oggi parleremo di una truffa, per carità, questa almeno è la denuncia del nostro radioascoltatore, che la società Calcio Milan avrebbe perpetrato nei confronti di Maurizio Landi e di chissà quanti altri abbonati al Milan come Landi, che ho il piacere di avere con noi in trasmissione. Buongiorno Landi. Buongiorno Garullo. Allora, cosa è successo Landi? La racconti direttamente lei ai nostri radioascoltatori. Semplicemente, io sono un abbonato del Milan da parecchi anni e a luglio ho sottoscritto l'abbonamento presso una delle banche di Milano che fanno da riferimento. L'abbonamento, chiaramente, poi, dato che sapevo che c'erano comunque delle normative UEFA che avrebbero comportato delle modifiche, però diciamo che non mi sono assolutamente preoccupato di questo, semplicemente dato che vado in una banca che mi propone il rinnovo del mio abbonamento, con mia grandissima scoperta, quando è iniziato il campionato mi sono recato allo stadio, nella mia solita postazione il seggiolino fisicamente non era più presente. Le hanno venduto un abbonamento, lei l'ha sottoscritto, con la sua sciarpa e la sua bandiera si è recato allo stadio di San Siro e, ahimè, con grande sorpresa non ha trovato il posto. Esatto. Quindi, insomma, voglio dire, una situazione sicuramente spiacevole che probabilmente non coinvolge solo la sua persona, ma chissà quante persone. E noi, per scoprirlo, ma anche per avere una visione assolutamente di ambo le parti, abbiamo chiamato in trasmissione anche la dottoressa Daniela Gozzi, che è la responsabile per la sicurezza dello stadio della società Calcio Milan. Buongiorno Gozzi. Buongiorno a tutti. Allora, cosa è successo? Un vostro fedelissimo abbonato è rimasto senza poltroncina. Innanzitutto mi scuso per il signor Landi e per tutti anche gli altri abbonati. È accaduto questo: come diceva il signor Landi, lo stadio San Siro si è dovuto adeguare alle norme UEFA e quindi abbiamo dovuto sostituire circa 72.000 seggiolini diciamo nella pausa estiva. 72.000 seggiolini nella pausa estiva significa avere iniziato i lavori solo dopo, cioè, i concerti, quindi a campagna abbonamenti sia di Milan e di Inter, mi permetto così, diciamo, di citare anche l'Inter perché lo stadio appunto lo gestiamo insieme, a campagna abbonamenti già avviate. Cioè, le banche hanno effettuato vendita su piantine che alle società sono state fornite dalla ditta che ha praticamente vinto l'appalto, che però in fase di esecuzione dei lavori ha dovuto fare degli adeguamenti appunto sia per la sicurezza e sia per altre situazioni di cantiere che si sono venute a creare. Però mi permetta di dire che probabilmente all'abbonato di queste cose non interessa poi molto. No, volevo semplicemente, mi sembrava doveroso spiegare i motivi, perché non si tratta assolutamente di una truffa, in quanto sono state cose che poi noi stesse società ne siamo stati purtroppo informati a cose avvenute, per cui noi ci siamo trovati a gestire, per farle capire appunto che non si tratta di truffe, in quanto noi a questi abbonati li stiamo contattando e stiamo proponendo un posto alternativo nello stesso settore o eventualmente in altri settori, e qualora l'abbonato avesse fatto un abbonamento insieme a un amico e quindi anche spostare due persone in altro settore, anche diciamo cioè di prezzo superiore per questo disagio. Nello stesso tempo, qualora non fosse possibile, noi ci rimborsiamo diciamo la somma pattuita. Quindi no, la quota, diciamo, quantomeno per le partite non viste? No, noi guardi, rimborsiamo intero abbonamento, perché capiamo benissimo, anche perché, mi scusi, oggi noi non siamo stati in grado, cioè per esempio noi nella partita col derby abbiamo creato uno sportello alla biglietteria sud dove distribuivamo dei tagliandi con il posto provvisorio per questi abbonati che hanno avuto questi problemi. Perché parlo posto provvisorio? Perché quando lei ha in contemporanea c'è la vendita della partita, se il signor Landi fosse venuto da noi e avesse detto: guardi, allora il posto che io a questo punto preferisco è il settore 20 fila 30, ecco, semmai quel posto era già stato venduto. Non ho capito, Gozzi, è chiaro, mi sembra che però la situazione sia abbastanza confusa, nel senso che, ripeto, all'abbonato di tutte queste cose non interessa assolutamente nulla, l'abbonato ha soltanto un diritto di cui deve godere, il suo posto, punto. Che poi ci siano le case che hanno fatto ritardo, le imprese edili o quant'altro, francamente non credo che debba interessare all'abbonato. Dopodomani, ore 15, il Milan scende in campo contro la Sampdoria. Landi avrà il suo posto o no? Dottor Landi, quel posto che lui ha visto a luglio sulla piantina, come le sto dicendo, per motivi, diciamo, di cantiere, di progetto, non esiste, nel senso che l'impresa nell'eseguire i lavori, circa sono stati 300 posti rispetto alle piantine che ci sono state consegnate da progetto, che non ci sono, nel senso che la capienza dello stadio da 80.000 circa, diciamo 400 posti, è scesa sugli 80.000 grosso modo, 100 posti. Mi scusi, quindi, Gozzi, Mi scusi Gozzi, ma adesso lei si sarà accorta che a me piace parlare spontaneamente senza peli sulla lingua. Ma le pare possibile che debba intervenire un giornalista, una radio, per comunicare ad un vostro abbonato questa cosa? No, guardi che i nostri abbonati sono stati informati, tant'è che dopo la prima partita in casa ovviamente questo problema è emerso, cui noi ci siamo iniziati a contattare abbonati. Bene, allora lei dice che l'avete contattati. Benissimo, vediamo cosa dice a questo punto Landi. Landi, lei è stato contattato dal Milan? Assolutamente no, perché li ho dovuti chiamare io dopo la partita Milan-Lazio, che ho impiegato un'ora con uno steward per trovare un posto dove sedermi. Quindi non è assolutamente vero, sono io che ho dovuto contattarli perché si era manifestata questa situazione. Oltretutto la segreteria, per rispondere al Milan, c'è stato parecchio tempo anche a telefono. Torniamo da Gozzi. Allora voglio dire, com'è la situazione? Non mi pare che voi state avvertendo gli abbonati. Quanti sono in questa condizione, Gozzi? Mi scusi se mi lasciava interrompere un attimo, io stavo dicendo che noi stiamo, e gli ho detto anche prima, stiamo cercando di contattare tutti gli abbonati, perché noi degli abbonati abbiamo l'anagrafica ma non certamente il numero di telefono, tant'è, come le dicevo prima, che domenica scorsa abbiamo grosso modo contattato circa l'85% di quelli che hanno avuto questi disagi. Se lei va sul nostro sito c'è un'informativa di queste, appunto, per le persone che a tutt'oggi non ci hanno contattato, perché adesso che c'è la sosta siamo in grado di rimborsare la somma pattuita. Gozzi, è chiaro, anche se mi sembra assolutamente cervellotico questo modo di procedere, ma ovviamente questa qui è una mia opinione, perché voi i soldi li pretendete prima e non capisco perché gli abbonati debbano rincorrervi per richiedere i soldi o per trovare una soluzione ideale. Mi sembra veramente una cosa cervellotica. Ma io do il buongiorno e il benvenuto anche al responsabile per la sicurezza dello stadio per l'Inter, per Francesco Barletta. Buongiorno Barletta. Buongiorno. Allora, come funziona la cosa dal vostro punto di vista? Anche voi avete le stesse difficoltà, Barletta? Abbiamo avuto lo stesso problema. Io aggiungerei, rispetto a quello che ha detto la mia collega del Milan, che questo problema, anche per dare una quantificazione del problema, questo problema riguarda 300 abbonati circa, nel senso che del disagio che abbiamo avuto ha riguardato, sulla perdita del posto, 300 persone. Ma li avete contattati tutti voi dell'Inter? Noi li abbiamo contattati, come anche ha fatto il Milan, ma non solo li abbiamo contattati, gli abbiamo offerto la possibilità di avere la restituzione della somma, ma abbiamo dato a queste 300 persone, abbiamo regalato un mini pass di Champions per andare ad accedere per accedere alle partite di Champions League dell'Inter e tutte le partite di Coppa Italia. Quindi diciamo, per scusarci del disagio che noi abbiamo arrecato ai nostri abbonati, abbiamo inoltre, oltre a dare la possibilità di avere indietro la somma che avevano speso, abbiamo dato anche quest'altra opportunità. Devo dire che gli abbonati hanno gradito. Lei ha premesso che il disagio è stato reale nei confronti degli abbonati. Devo dire che non è vero il fatto che non interessi agli abbonati questa questione, perché comunque per la sostituzione dei seggiolini serve alle due società a poter fare le competizioni europee. No, Barletta, mi scusi, e io la interrompo un attimo, io non ho detto questo, ho detto che gli interessa come? Ovviamente la sicurezza, ma interessa anche avere il proprio posto nella prima partita utile. Sarebbero un disagio ulteriore a non poter partecipare alle competizioni europee, a non vedere la propria squadra in Europa. Sì, quindi sì, ma questa è una vicenda, è una questione successiva a quella che io ho posto in evidenza. Comunque ringrazio lei, ringrazio Gozzi per il vostro intervento, il nostro radioascoltatore, e direi, se mi consentite la battuta, contrariamente a quanto è successo in campo, questa volta per, come dire, soluzione del problema, Inter batte Milan 1-0, almeno così sembrerebbe, ma noi torneremo su questa questione nei prossimi giorni per andare a vedere come va a finire. Io ringrazio in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.